Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, 11.07, è arrivato il momento di parlare di salute. In regia abbiamo Giorgio Mattei, in redazione Laura Vanossi. Andiamo subito a sentire i temi del giorno. Prostata, vi dice qualcosa questo nome? È tornata l'ora solare, consigli per non perdere lo sprint. Una salute da Guinness. Prostata, di che cosa stiamo parlando? Che cos'è? Sentiamo. Cosa è la prostata? Dunque sì, la prostata è facile. Ecco, dice sì, di donna molto prostra. Insomma, ecco, dunque dicevo che è una posizione, donna in stato di adorazione. Mi sovviene, è un dolce, lo faceva anche mia mamma. È la prostata di, si può fare di metilo, di per... Ecco, è l'imperatore romano, è l'eresiarca bizantino, Giuliano la prostata. Bene, Fantozzi non aveva le idee chiare, le poche abbastanza confuse, ma sufficienti per farci strappare una risata che a volte aiuta anche a stare meglio. Ma dentro ognuno di noi sonnecchia un piccolo, piccolissimo Fantozzi. Sentiamo un mini sondaggio tutto al maschile che abbiamo realizzato. Prostata è una ghiandola dell'apparato riproduttivo o maschile che è a ridosso della vescica e può ingrossarsi ad una certa età. Non so bene cosa sia la prostata, secondo me è qualcosa legato all'apparato diuretico. So che faccio le visite, no? Cioè faccio le analisi del sangue, però nello specifico mi sembra che sia qualcosa che riguardi le urine. Ecco, questo è quanto posso immaginare. La prostata? È una vescica che c'è nel corpo umano, soprattutto maschile. Guarda, non sono sicurissimo, credo che la prostata sia una ghiandola che c'entra con la produzione degli spermatozoi. Bene, ma che cosa dite voi da casa? Io credo che a questo punto valga la pena tornare a parlare di questa ghiandola. Lo faremo oggi insieme al professor Vincenzo Ficarra, che è in linea con noi, associato della clinica urologica all'Università di Padova. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per questo gentile invito. Professore, da Fantozzi, che l'ha definita un dolce, una crostata, al signore che ha detto che è una vescica che si trova nel corpo degli uomini, allora cerchiamo di orientarci un po'. Che cos'è allora la prostata e a cosa serve? Perché anche sulla sua funzione ci sono un po' di dubbi. Allora, la prostata è sicuramente una ghiandola che fa parte dell'apparato genitale maschile, ha una situazione anatomica, una posizione anatomica estremamente strategica perché si trova al di sotto della vescica, ma soprattutto tende ad avvolgere il primo tratto dell'uretra, che è un canale che porta le urine dalla vescica verso l'esterno, per cui ha dei rapporti molto intimi con l'apparato urinario e da qui forse probabilmente il motivo per cui alcuni vostri radioascoltatori hanno messo in relazione la prostata con l'apparato urinario, però in realtà la prostata fa parte dell'apparato genitale maschile e la sua funzione è quella di produrre un liquido, un segreto che viene definito segreto prostatico, che per l'appunto è importante, un importante componente del liquido seminale. Non produce quindi gli spermatozoi, ma produce una quota di liquido seminale che però è importante per esempio per fornire forza, energia agli spermatozoi, per farli muovere in maniera più efficace, in un certo senso anche per proteggerli da alcuni germi e sostanzialmente per renderli più in grado di poter sopravvivere una volta che raggiungono l'apparato genitale femminile, quindi poi per poter avere una maggiore probabilità di fecondare l'ovocellula. Quindi è una funzione riproduttiva, ma con intimi rapporti con l'apparato urinario. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, è già a vostra disposizione, così pure come il numero per inviare i messaggi 349 238 6666. Professore, sicuramente si sarà sentito dire dottore ho la prostata, molti uomini indicano, fanno questa affermazione e indicano non la ghiandola in sé ma i disturbi che a lei vengono attribuiti, verso i quali, mi dica se sbaglio, gli uomini maturano una sorta di rassegnazione. Insomma, con l'età si accetta la pancetta e, facendo, immagino, buon viso a cattivo gioco, si mette anche in conto che sia inevitabile avere una maggiore urgenza nel fare pipì o alzarsi la notte per andare in bagno ad urinare. Professore. Sicuramente la prostata con il passare degli anni tende ad aumentare di volume, di dimensione, questo avviene in una percentuale molto elevata di soggetti, inizia ad aumentare di volume soprattutto dopo i 50 anni, per cui è possibile che, aumentando di volume, come dicevo precedentemente, proprio perché tende ad avvolgere l'uretra, può determinare una alterazione del flusso minzionale e questo naturalmente può provocare una serie di disturbi che vengono poi identificati dal paziente come ho la prostata. In realtà molti pazienti col passare del tempo sviluppano dei sintomi che sono correlati alla presenza dell'aumento volumetrico della prostata. È, come diceva lei, una condizione che potremmo definire fisiologica, cioè legata all'invecchiamento, fra virgolette, anche se chiaramente a 50 anni non si può parlare di un invecchiamento. I sintomi che possono verificarsi sono sintomi che possono riguardare sia l'urgenza menzionale, quindi la necessità di dover andare in bagno con una certa impellenza, non riuscire a rimandare, a procrastinare l'atto menzionale, si possono avere un aumento della frequenza delle menzioni, ma soprattutto si possono sviluppare col passare del tempo una serie di disturbi che sono legati a un vero e proprio ostacolo, ostruzione che la prostata può creare al flusso urinario. Non sempre però dietro a questi disturbi c'è qualcosa di serio, professore, nel senso che spesso la prostata si lamenta di gamba buona, o meglio, a volte i guai, come gli ospiti indesiderati, non si annunciano. Il tumore prostatico, ad esempio, non dà chiari sintomi. Paradossalmente la maggior parte dei disturbi menzionali che i nostri pazienti accusano e che riferiscono sono legati all'aumento volumetrico della ghiandola, che è una condizione benigna, cioè non è una neoplasia, non è un tumore. Al contrario, le neoplasie della prostata invece hanno un esordio differente, spesso sono asintomatiche, non danno assolutamente segno di sé, e questo naturalmente porta a dover diagnosticare questa importante neoplasia in altra maniera, soprattutto attraverso dei programmi di diagnosi precoce o dei controlli che routinariamente i pazienti dopo i 50 anni cominciano a fare. Professore, noi partiremo proprio dai sintomi che vengono descritti per risalire e individuare le cause che ci sono a monte. Quindi, naturalmente, ho bisogno dell'aiuto dei nostri ascoltatori da casa, che possono contattarci al nostro numero verde 800 24 00 24. Approfitteremo del professor Ficarra sino alle ore 12. Entreremo anche in merito alle novità che si presentano anche nella diagnosi e nell'intervento e nel post-intervento. I messaggi 349-238-6666. Una mela al giorno. Nella notte tra il 25 e il 26 siamo tornati all'ora solare. Abbiamo messo le lancette dell'orologio un'ora indietro. Molti di noi però si sentono un po' sfasati, ma c'è una ragione, c'è un motivo dietro a questo disagio o è solo suggestione? Per saperne di più abbiamo invitato il professor Roberto Manfredini, direttore dell'unità operativa di medicina interna all'ospedale del Delta SL di Ferrara. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta, grazie a voi e tutti gli ascoltatori. Professore, ma basta il ritorno all'ora solare per farci perdere il ritmo? Intanto diciamo che l'ora di luce in meno ce l'abbiamo nel pomeriggio, quindi avremo la giornata un pochino più corta, la recuperiamo un pochino al mattino, e se lo alzarci col buio ci sarà un pizzico di luce in più, quindi diciamo che è nel gioco delle parti. Le persone diciamo tra virgolette non troppo sensibili non dovrebbero risentire di un'ora di modificazione. Alcune persone magari invece possono avere specie all'inizio un po' di sfasamento, per esempio viene buio prima, potrebbero avere un pochino di sonnolenza di più a ora di cena invece che a ora di andare a letto, per esempio. Poi magari al mattino c'è un attimo di sprint, forse un po' prematuro. Quindi, professor Manfredini, noi ci stiamo preparando al letargo invernale. È vero, diciamo che con la diminuzione delle ore di sole, quindi con l'aumento del buio, aumenta anche la produzione della melatonina, e anche l'uomo, anche se con la sua diversità, fa un pochino come l'animale, cioè tende ad accumulare un pochino di calorie, tende a prepararsi quasi per il letargo, quindi ci verrebbe voglia di mangiare un po' di più, di mangiare un po' più di zuccheri specialmente, cioè la tendenza a muoversi un pochino meno perché magari è freddo ed è buio, e quindi bisogna stare un po' attenti perché l'animale fa letargo, ma l'uomo potrebbe mettere su qualche chiletto. È tutta colpa della melatonina, mi chiede un'ascoltatrice che ci scrive: è vero che la melatonina fa mangiare di più, e allora prendere la melatonina per regolare il sonno può portare ad un accumulo di peso? No, no, assolutamente no, non è affatto colpa della melatonina. La melatonina è un ormone endogeno, quindi noi lo produciamo normalmente, lo prendiamo come aiuto per il sonno, ma non è uno stimolatore dell'appetito. È semplicemente che siccome il buio e la melatonina riducono un pochino il fabbisogno energetico dell'organismo, quindi l'organismo consuma un po' di meno rispetto per esempio quando c'è l'alta temperatura, allora se noi stiamo d'inverno al buio e mangiamo uguale, ingrassiamo un pochino di più dell'estate, ma non perché faccia venire più fame. Quindi togliamo subito questo dubbio, la melatonina non fa aumentare di peso. Grazie professor Manfredini per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi tutti. Buon inverno, arrivederla. Grazie a voi. Pronto soccorso. Torniamo ad affrontare il tema di oggi. Oggi parliamo di prostata e lo facciamo partendo dai sintomi. In nostra compagnia è il professor Vincenzo Ficarra. Professore, anche l'età dei nostri ascoltatori può fare la differenza? Assolutamente sì. Abbiamo parlato prima di disturbi menzionali legati all'aumento volumetrico della prostata. Questo chiaramente, come abbiamo detto, si verifica soprattutto dopo i 50 anni, mentre in età più giovane sicuramente la prostata può soffrire, può avere delle problematiche che sono principalmente legate a fenomeni infiammatori che prendono il nome di prostatiti. Questo sono più a carico di una fascia di popolazione più giovane. Ma sono un problema importante e rilevante, possono avere un andamento acuto caratterizzato da febbre, da sintomi molto importanti a carico dell'apparato urinario, o possono più volte avere un andamento più subdolo, più cronico, e in questo caso si contraddistinguono per disturbi più sfumati, l'aumento del numero delle minzioni, il dolore durante l'esecuzione della minzione o tutto un corteo di sintomi a carico della regione sovrappubblica, a carico della regione perineale, a carico dei testicoli, e sono sintomi particolarmente fastidiosi che devono essere adeguatamente affrontati e curati. Danilo ci chiama da Roma, 800 24 0024. Danilo, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno professore. Senta, io ho 70 anni, quindi è un'età diciamo a rischio per questo problema. E quest'estate, fra l'altro, non ero in Italia, io nel passato ho avuto qualche cistite non grave, diciamo, che mi curavo con degli antibiotici idonei. Sotto il livello prostatico ho sempre fatto dei controlli e non ho avuto mai dei riscontri, diciamo, di carattere negativi, perché sì, le dimensioni di questo organo, anche un paio di anni fa ho fatto questo controllo, erano nella norma. Quest'estate invece io ho avuto un disturbo che mi comportava frequenti minzioni, specialmente notturne, sì, e con un leggero bruciore, al quale ho attribuito inizialmente un problema di cistite. Sì. E quindi, essendo fuori Italia, ho chiesto al mio dottore di base la possibilità di curarmi con qualche antibiotico, e mi ha dato il Norocin 40. E quindi con l'antibiotico è passato? Con l'antibiotico, quell'antibiotico specifico no, però stando fuori ho chiesto a un professore che era italiano, fra l'altro, e mi ha dato un altro tipo di antibiotico, e adesso io non ricordo il nome. Quindi comunque, Danilo, il disturbo e le è stato suggerito l'antibiotico. Andiamo a chiedere al professor Ficarra. Professore, Danilo ci dice frequenti minzioni notturne. Ci dice quando le minzioni notturne devono iniziare a essere considerate frequenti? C'è un limite? Generalmente durante la notte non si dovrebbero avere minzioni, questo però chiaramente non può essere preso come elemento categorico. È chiaro che anche l'alzarsi una volta durante la notte può non essere necessariamente considerato una situazione patologica, e naturalmente poi il numero delle minzioni sia di giorno che di notte va anche correlato alla quantità di liquidi che vengono introdotti nel nostro organismo durante la giornata, e per quanto riguarda soprattutto la notte, la quantità di liquidi liquidi che vengono introdotti nelle tarde ore pomeridiane, certo, perché chiaramente questo può poi comportare, può fare aumento, la differenza, esatto, del numero delle emissioni, ma necessaria, cioè in relazione alla necessità di eliminare una maggiore quantità di liquidi che sono stati introdotti. Per cui possiamo dire che al di sopra di una emissione alla notte, in condizioni di introito liquido normale, è una condizione che deve essere indagato, può essere preso in considerazione come un problema da indagare. Il nostro amico Danilo ha una sintomatologia caratterizzata da un quadro di urgenza frequenza, cioè lui ha l'urgenza, la necessità talora di dover andare in maniera improvvisa e non posticipabile al bagno, a cui si accompagna spesso quello che lui ci ha detto, cioè un aumento del numero delle emissioni anche durante il giorno, oltre che durante la notte. Questi possono essere disturbi iniziali legati a una ostruzione cervico-uretrale dovuta all'aumento volumetrico della prostata. È importante questo sottolinearlo, perché talora noi ci troviamo di fronte a pazienti che hanno prostate molto voluminose ma con pochi disturbi, e talora pazienti con prostate appena aumentate di volume, in cui invece il corteo dei sintomi è nettamente più importante. Per cui l'invito a Danilo, oltre che considerare una terapia antibiotica, la eventualmente anche ad indagare un attimino in maniera più approfondita anche l'eventuale situazione emissionale. Professore, Danilo ci ha già introdotto in due sintomi che sono abbastanza frequenti. Abbiamo parlato dell'urgenza nel fare pipì e nel numero delle emissioni. Ma tra i sintomi qualcuno descrive anche un bruciore intenso nell'atto di urinare, credo simile a quello che viene descritto durante un attacco di cistite, più o meno, professore. Il bruciore è un termine estremamente utilizzato in maniera variegata, sì, dai pazienti, non è difficilmente catalogabile, sicuramente a volte è proprio un dolore durante la minzione che può essere correlato a fatti infiammatori, non solo legati alla prostata ma anche legati a tutto il basso apparato urinario, per esempio anche all'uretra. Sì. Altre volte il bruciore può essere anche un sintomo che ci deve far pensare a patologie che non sono direttamente correlate con la prostata, ma per esempio anche con la vescica. Esiste una serie di patologie vescicali, fra cui anche le neoplasie della vescica, che non infrequentemente si presentano proprio con questo sintomo, cioè con il bruciore durante la minzione. Per cui di per sé è un sintomo piuttosto specifico, piuttosto generico, ma che poi porta lo specialista a dover fare una serie di indagini di ampio respiro, non necessariamente mirate a un problema di tipo prostatico. Professore, anche il flusso dell'urina dice qualcosa? Assolutamente sì, perché se abbiamo una ostruzione, un ostacolo a livello del tratto prostatico, è chiaro che nonostante avremo una vescica in grado di contrarsi in maniera efficace, quindi di poter spingere in maniera efficace le nostre urine verso l'esterno, se esiste un ostacolo, chiaro che questo ostacolo rallenterà il flusso delle nostre minzioni. Attenzione che oltre alla prostata, un'altra frequente causa di ostruzione al flusso urinario, questa frequente soprattutto nei giovani, può essere legata a delle stenosi dell'uretra, cioè dei restringimenti dell'uretra, che naturalmente possono rendere più problematico, più difficile per il paziente svuotare la propria vescica. Andiamo da Davide che ci chiama da Milano, 824 0024. Davide, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Può fare la sua domanda? Certo, grazie. Volevo sapere la seguente cosa. Sì. Dopo che età bisogna fare dei controlli più mirati, diciamo, per la prostata, e soprattutto il PSA in che range deve stare ad un'età intorno ai 45-50 anni? Grazie Davide. Professore? Per quanto riguarda i controlli, noi in linea di massima si raccomanda, o si consiglia più che si raccomanda, l'esecuzione di controlli dopo i 50 anni, sì, con l'esclusione o l'eccezione di alcune categorie di persone, soprattutto quei pazienti che hanno una franca familiarità per la neoplasia della prostata. In questi pazienti si consiglia di anticipare i controlli all'età di 45 anni. Il PSA? Il PSA tra i 45 e i 50 anni, un valore di normalità dovrebbe essere inferiore a 2,5 nanogrammi. Andiamo a Riccardo, ci chiama da Siena, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo fare più o meno la stessa domanda. Mio padre è stato operato di prostata neuroinvasiva come sì. tumore. E volevo sapere a che età devo anticipare i controlli. Grazie Riccardo, il professor Ficarra in parte ha già anticipato, ma magari deve aggiungere un dettaglio, professore. Ma io ribadisco quello che ho detto precedentemente, cioè è chiaro che un solo parente non è necessariamente indice di familiarità di carcinoma della prostata, però sarebbe più appropriato che fossero due o più parenti ad aver avuto in precedenza questo tipo di patologia, però in questi casi obiettivamente non è sbagliato consigliare una esecuzione del PSA dai 45 anni in su, con una frequenza che può essere inizialmente annuale, poi se i valori sono tranquilli e non sospetti si può anche eseguire dei controlli più dilazionati nel tempo. Andiamo velocemente a Genova, ci aspetta Marco 824 0024. Marco, rapidamente la sua domanda. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo fare una domanda al professore, una curiosità. Avevo sì. letto tempo fa su una rivista medica che i rapporti sessuali piuttosto frequenti aiutano un eventuale dica lei. Evitano le infezioni al liquido seminale, alla prostata, perché c'è un ricambio frequente di appunto di liquido seminale. Volevo sapere se era vero oppure era una montatura. Non ho ben capito se lei ha detto che si riducono le infezioni o aumentano. Non sono si riducono. Perché c'è un ricambio più frequente di liquido seminale, non c'è ristagno e quindi e allora il liquido è più fresco, insomma, e quindi quasi fossero terapeutici. Marco, sentiamo il professor Ficarra che ci dice. Beh, in parte un fondo di verità questo può averlo, però non esistono proprio dimostrazioni scientifiche che sia così, cioè non è una cosa assolutamente da consigliare a aumentare il numero di rapporti sessuali per evitare o per ridurre il rischio di infezioni. Attenzione che molto spesso proprio i rapporti sessuali sono causa di malattie infettive a carico dell'apparato genitale, per cui la raccomandazione può essere quella di avere una vita sessuale quanto più normale possibile e con le dovute attenzioni ad evitare esposizioni al rischio di malattie eventualmente sessualmente trasmesse. Torniamo ad affrontare il tema del giorno, parliamo di prostata e abbiamo capito che questa ghiandola riveste un'importante funzione nella produzione del liquido seminale. E allora viene immediato chiedersi se alterazioni della struttura e dello stato di questo organo possono influenzare la fertilità maschile. Per rispondere a questa domanda, che è emersa anche da molti vostri messaggi, ho invitato il professor Vincenzo Gentile, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Direttore di Dipartimento di Urologia del Policlinico Umberto I di Roma. Professore, allora, ci può essere una relazione pericolosa, tra virgolette, tra i disturbi? Sì. Tra prostata e disturbi della fertilità? Sì. Pericolosa nel senso che altera una patologia della ghiandola, finisce con l'interferire con la produzione del liquido seminale, perché una prostatite, un'infiammazione della prostata sicuramente determinerà un'alterazione nei componenti che normalmente costituiscono il liquido seminale e quindi finirà con un'azione o diretta o indiretta a creare un problema al potere e all'indice di fertilità dell'uomo. E dicevo come? Con un'azione diretta, perché le prostatiti poi, l'apparato genitale i vari componenti dell'apparato genitale sono vicini, quindi sì. Le vie seminali, allora la prostata, l'infezione si può diffondere dalla prostata al deferente, all'epididimo, al testicolo e già questo finisce col determinare dei problemi e peraltro come esiti di una infezione di una prostata, di una prostatite, deferentite, ci possono essere poi delle alterazioni anatomiche, cioè le vie di flusso degli spermatozoi si chiudono, quindi una stessa alterazione dello spermatozoo, quindi qualcosa che va ad interferire con la sua motilità. Quindi, allora, professore, questo vuol dire che le prostatiti non vanno mai trascurate e il professor Ficarra diceva che sono di solito gli uomini più giovani che incorrono in questo disturbo. certamente, non vanno mai trascurate, ed è vero che sono gli uomini più giovani, sono quelli poi che a rigore dovrebbero essere quelli che più si preoccupano della propria fertilità, anche se oggi poi l'uomo tende ad avere dei figli anche a 40-50 anni, qualcosa in chiave sociale si è spostata, è cambiata. Professore, però... ma dopo una prostatite, che i sintomi sono passati, nella fase acuta è andata, come fa un uomo a capire se tutto è tornato come prima, se non ci sono stati dei danni? Al di là del fatto che ovviamente deve fare un controllo con lo specialista che lo ha messo in cura per il fatto acuto e che quindi gli dica guarda, lei è definitivamente chiarito. Però ci sono spesso, quando residuano dei disturbi o che una prostatite acuta si trasforma in prostatite cronica, non si raggiunge il pieno benessere, c'è un senso di peso perineale, sì, un lieve fastidio, qualche volta un bruciorino quando si ha l'eiaculazione, un fastidio quando durante l'atto menzionale. Questo spinge a rifocalizzare l'attenzione sulla ghiandola e a capire se il processo è ancora in atto in una forma subacuta o addirittura si è cronicizzato. Di solito quando invece è un problema acuto che ha avuto un buon inquadramento diagnostico, c'è stato il risultato terapeutico buono, il paziente sente di stare meglio. Professor Gentile, poi finisco con una notazione di carattere psicologico. Sì. Tutto ciò che riguarda l'apparato genitale finisce col condizionare psicologicamente il nostro paziente, per cui lo stesso non starà sereno, si fa pigliare uno stato di ansia, di stress, che influisce poi anche sulle altre funzioni dell'attività sessuale, sul disturbo del desiderio, su un'erezione non brillante, e tutto poi concorre a creare uno stato di non benessere, di non armonia tra la coppia, che incide negativamente anche da questo punto di vista sulla parte riproduttiva. Professor Gentile, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. Grazie. Grazie, a presto, arrivederci. Vogliamo a Firenze, ci aspetta Giampiero, 824 0024. Giampiero, buongiorno. Buongiorno, io volevo porre una domanda. Sì. Volevo sapere se lo stato di ansietà, sì, o di nervosismo può influire sulla frequenza nell'urinare, nella necessità di urinare. Quindi sono agitato, sono stressato, faccio più spesso pipì. Professor Ficarra, possibile che lo stress aumenti il numero delle menzioni? Gian Piero coglie un aspetto che si vede molto frequentemente nella pratica clinica, sicuramente ci sono degli aspetti legati anche non solo all'ansia o al nervosismo, ma direi un po' più in generale alla sfera del comportamento di ognuno di noi, che possono sicuramente influenzare il numero delle menzioni. Diventa praticamente un'abitudine talvolta, sì, urinare più frequentemente, come al contrario può diventare un'abitudine posticipare enormemente la necessità di mingere e quindi urinare un numero inferiore di volte. Riccardo ci chiama da Torino, buongiorno Riccardo. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, per cortesia, io volevo sapere, perché io ho un problema nella minzione, nel senso soprattutto al mattino, fatico molto, inizia proprio solo con un gocciolamento, praticamente, sì, io sto lì anche 5-10 minuti, ecco, questo soprattutto al mattino, durante la giornata invece torna a posto regolare. Esatto. Grazie al mattino... Riccardo. Professor Ficarra, perché al mattino per Riccardo è un momento difficile? Riccardo rientra nella normalità di coloro che hanno disturbi legati alla fase di svuotamento vescicale, l'attesa menzionale che lui ha descritto molto bene, cioè questa necessità di attendere che la menzione si avvii, è espressione del fatto che durante la notte probabilmente la vescica sia riempita in maniera eccessiva, quindi la vescica perde perché è troppo distesa una certa capacità di contrarsi e quindi stenta a riprendere la sua normale funzione. Quando poi progressivamente pian piano questa forza viene incontro al paziente, ecco che progressivamente comincia a mingere. Durante la giornata questo è meno evidente perché magari non si raggiungono dei volumi di urina talmente elevati come durante la notte in vescica. Questo però è un sintomo importante ed è un campanello d'allarme, uno dei sintomi che vanno assolutamente indagati ulteriormente, quindi in direzione di un eventuale aumento l'aumento volumetrico della prostata. A proposito di controlli, professor Ficarra, quali sono i controlli che permettono al medico di valutare proprio la salute della prostata? Abbiamo visto che l'ipertrofia prostatica di per sé non è un problema, non è una malattia. La prostata aumenta di volume, può in alcuni soggetti dare dei problemi, a volte non li dà affatto, e i problemi non sono necessariamente legati al volume della prostata, è corretto? Esatto. Come faccio a controllarla? Quali sono gli esami? Innanzitutto, oltre agli esami, direi che è importante la visita medica ed è importante anche esattamente identificare quali sono i sintomi del paziente, magari anche valutare questi sintomi con degli strumenti particolari, quali possono essere le carte menzioni. Cosa sono? Le carte menzioni sono degli strumenti molto semplici, il paziente può registrare l'orario in cui urina, la quantità di urina che fa e le sensazioni che ha in relazione alla sua menzione. Una specie di diario della pipì. Esatto, un diario della pipì che per noi può essere importante perché ci può dare tutta una serie di informazioni che ci consentono di cominciare ad inquadrare il paziente in maniera più corretta. Poi naturalmente un momento fondamentale è la visita, quindi in questo caso l'esplorazione rettale che ci consente di poter apprezzare la ghiandola prostatica e di poter avere delle informazioni sulla sua volumetria. Sì. Altre indagini importanti possono essere una ecografia addominale, addominopelvica, che ci dà una informazione sulla eventuale presenza di un ristagno di urina all'interno della vescica e poi naturalmente il PSA che può darci delle informazioni importanti sulla eventualità che ci possa essere anche un dubbio, un sospetto di neoplasia della prostata. Questi sono gli esami, diciamo, base. Riprendiamo a parlare di prostata, parlavamo di PSA, professor Ficarra, l'acronimo di antigene prostatico specifico. È un valore questo da valutare sempre, è attendibile, è importante, perché già arrivano molti messaggi di ascoltatori che dicono in tutto il mondo non si misura, non si tiene in minima considerazione questo valore, che senso ha? Potrebbe rilevare la presenza di una neoplasia, ma professore, a lei la parola. Il PSA è un argomento estremamente controverso, estremamente difficile, dove anche in ambito scientifico ci sono delle opinioni che possono essere anche contrastanti fra di loro. Sicuramente è un importante strumento che abbiamo a nostra disposizione, dobbiamo imparare ad utilizzarlo nella maniera migliore possibile, non ci dà probabilmente sempre delle risposte che siano categoriche, può avere delle situazioni in cui rientriamo in aree grigie di difficile interpretazione, però c'è anche il buon senso del medico, c'è anche l'arte del medico che può in determinate situazioni trovare la giusta via. Senta, professore, lei lo misura il suo PSA? Il mio PSA no, perché sono ancora sotto i 40 anni, per cui non rientro nella fascia di età per cui misurare il PSA. Probabilmente quando avrò raggiunto i 50 anni comincerò a misurarlo anch'io. Senta, e abbiamo delle indicazioni da dare riguardo ai valori? I valori di PSA possono essere considerati come valori di normalità, i valori che sono inferiori a 2,5. Sì. Alcuni autori sono anche un pochettino più larghi e considerano come valori di normalità fino a 4 nanogrammi. Poi abbiamo tutta una fase che è un'area che è l'area grigia del PSA, che va dalla 2,5 a 10, in cui questo marcatore può essere aumentato per diversi motivi. La cosa essenziale da dire è che il PSA non è un marcatore di tumore della prostata, quindi non è un marcatore neoplastico, è un marcatore d'organo. Cosa vuol dire? Aumenta in tutta una serie di situazioni, non solo nelle neoplasie della prostata. Anche per una prostatite, ad esempio? Per le prostatiti aumenta in maniera elevatissima, ma fortunatamente le prostatiti rientrano in una fascia di età in cui il paziente non dovrebbe eseguire un PSA. per cui nel sospetto di una prostatite sconsiglio l'esecuzione di un PSA, perché andiamo ad avere poi un paziente che avrà valori particolarmente elevati e sostanzialmente avremo probabilmente generato paura per nulla. Aumenta però nell'ipertrofia prostatica, sì. Più grande la prostata più produce PSA, quindi possiamo avere questo fattore di confondimento, ma altri fattori di confondimento possono essere anche l'esplorazione rettale stessa, manovre strumentali che possono essere realizzate a livello dell'area prostatica, per cui insomma è da interpretare. Bisogna interpretare e capire. Allora io vorrei parlarvi di una novità, è un esame, si chiama PCA, si farà attraverso l'esame dell'urina per individuare con più precisione i casi sospetti. Ci facciamo spiegare tutto dal professor Francesco Montorsi, professore di urologia presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Professore, parliamo di questo esame che rappresenta sicuramente, rappresenterà, perché per il momento è disponibile in pochissimi centri, se non mi sbaglio. È disponibile in una trentina di laboratori in tutta Europa e ci sono i primi 4 laboratori in Italia che stanno iniziando ora ad usarlo. È un esame delle urine, come ha detto giustamente lei, il paziente deve essere visitato dal medico attraverso un'esplorazione rettale durante la quale viene eseguito un massaggio della prostata, la raccolta delle urine immediatamente dopo questa manovra permette di dosare questo gene che è particolarmente espresso nei casi di tumore della prostata. Non è un esame che sostituisce né il PSA né la visita fatta dal medico. Ad oggi si ritiene che abbia una indicazione di elezione precisa nei pazienti che hanno già dovuto fare delle biopsie prostatiche per un sospetto di tumore. Le biopsie sono risultate fortunatamente per il paziente normali, ma comunque nel seguire il paziente successivamente si vede che o il PSA o la visita continuano a rimanere dubbi e quindi il medico vuole proporre al paziente di eseguire una seconda biopsia. Allora in questo campo particolare l'esecuzione del PCA3 è sicuramente di aiuto per identificare i pazienti che possono essere più a rischio. In più si misura con un numero alla fine il risultato dell'esame e sembra che più è alto questo valore, più i pazienti che dimostrano effettivamente di avere un tumore lo abbiano particolarmente aggressivo, quindi sembrerebbe essere un marcatore di malattia anche in termini di sua aggressività. È una novità, aiuterà sicuramente tanti pazienti, non è però un cambiamento epocale nell'ambito della valutazione del tumore della prostata. Un occhio in più, insomma, professor Montorsi. Assolutamente. Professor Montorsi, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci illustrato questa novità. Le auguro una buona giornata. Grazie anche a lei e agli ascoltatori. Abbiamo velocissimamente tempo per sentire Roberto che ci chiama da Roma. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Se mi fa veloce la domanda, il professor Ficarra le risponde rapidamente. Sì, grazie. Per uno che è stato operato alla prostata, sì, che è un carcinoma alla prostata, l'attività sessuale, dopo quanto tempo ritorna normale? Grazie Roberto. Professor Ficarra, velocemente delle indicazioni. In primo luogo bisogna che il paziente sia stato sottoposto a una prostatectomia radicale con preservazione dei nervi cavernosi, sì, il termine è nerve sparing. Dopodiché nell'immediato post-operatorio per i primi mesi è possibile che l'attività sessuale non ritorni normale immediatamente, ma nei mesi successivi, soprattutto se il paziente è stato adeguatamente riabilitato, sottoposto a un programma di riabilitazione, progressivamente l'attività sessuale può ricominciare e può riprendere. È necessario talora aspettare anche fino a 6 mesi, 9 mesi, un anno, prima che le cose tornino non come prima, ma in maniera molto vicina a quella che era la situazione preoperatoria. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, per averci accompagnato nella puntata di oggi. Anche a lei una buona giornata e un buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. E prima di salutarvi apro per voi e con voi il libro dei Guinness dei primati. Nella sezione dedicata alla salute ci sono dei record curiosi da cui prendiamo spunto per avere dei consigli e delle indicazioni per il nostro benessere. In linea con noi abbiamo Marco Frigatti, alias il signor Guinness, benvenuto. Buongiorno a tutti. Partiamo da un numero, quello della nostra circonferenza addominale. Sappiamo che più il valore è alto e più aumenta il nostro rischio cardiovascolare. Marco, c'è un signore che evidentemente non lo sapeva ed è finito nel Guinness dei primati. Esattamente, pensa che il girovita più grande di tutti i tempi misurava 302 centimetri e apparteneva al newyorkese Walter Hudson, che pesava ben 545 kg. E adesso passiamo da un recordman all'uomo comune. Quale dovrebbe essere il valore del nostro girovita per non farci finire nei Guinness ma per stare bene? Sentiamo il nostro robot della salute che ci dà i valori limite. Uomo 102, donna 88. Oltre a misurare con il centimetro il nostro girovita, i medici usano anche un altro indicatore, l'indice di massa corporea. Nicoletta, vuoi sapere che a Singapore nel 2004 ben 3.594 persone si sono sottoposte contemporaneamente alla misurazione del loro indice di massa corporea, stabilendo quindi un nuovo Guinness. Bene, questa è stata proprio una vera misurazione di massa. Volete conoscere anche voi il vostro indice di massa corporea? Allora segnatevi questa formuletta, ce la suggerisce il nostro robot della salute. Peso in chilogrammi diviso altezza in metri al quadrato. Bene, se il risultato è compreso tra 18 e 20, 5, bravissimi, siete normopeso. E per ora è tutto, grazie, saluto Marco Frigatti. Grazie, buona giornata. L'appuntamento torna domani dopo il GR delle 11, vi aspetto, intanto buona giornata da Nicoletta Carbone.